entrato, drago, stiamo entrando nel clima infantile che domina la trasmissione della quale noi siamo portavoce. O portavoce. Portavoci. Porti. Questo programma vi è presentato da Wunderwaffer. Credo asilo. Wunderwaffer è la merendina allo zenzero che racchiude in sé tutte le caratteristiche positive della sua terra d'origine. Sai che tu proprio con le televendite, radiovendite, non è il tuo, cioè perché si sente subito che ti metti come tutto dritto con le chiappe strette, ma non se no il cliente così. Poi non si fa convincere. Ma se ho capito, però tu che parli della Svizzera, non funziona. Allora, la Svizzera, tu non sai niente della Svizzera. Cosa so della Svizzera? Dai, che non ha il mare, che ci sono le case a punta, mi suggeriscono. Sono gli chalet. Ah, gli chalet, poi... gli chalet, c'è lo sci. C'è l'Emmentaler e poi le solite cose, insomma, gli orologi a cucù, i conti di cifrati. Fammi mangiare il Wunderwaffer, che almeno quello. Vedi. Il sapore della è così che si fa. Si mangia il Wunderwaffer e poi si dice. Che bontà! Oh, vedi, così siamo andati bene, perché bene. Siamo andati dritti sull'obiettivo, Wunderwaffer è buono. E magari adesso i nostri amici svizzeri si decidono a far partire il bonifico diverso dalle scatole di Wunderwaffer che ci ha mandato un'altra volta. E allora, per restare in argomento, parliamo di obesità. No, ma... Ma cosa c'è? Cos'è successo adesso? Non so, hai detto obesità. L'allarme evacuazione, non ho capito. Forse nominare l'obesità durante un programma sponsorizzato da una merendina che fa ingrassare fa scattare l'allarme, no? Ma qui, scusa, se ogni tanto non parliamo di obesità, non c'è nient'altro da dire. Poi, a guardare te, insomma. Cosa ti devo dire? Dai, lo scatta l'allarme. Vabbè, con l'obesità ci riproviamo dopo. Dopo. Oh, tutto tornato alla normalità e adesso possiamo veramente cominciare. Allora, riprovo? Ma sempre con quell'argomento lì. Ma è il caso. Vabbè, però magari usa un sinonimo. Però. Proviamo. Allora, i bambini che mangiano con le mani sono più magri di quelli che mangiano... Coi piedi? No, con le posate. Ecco, per evitare sbuffi e battutine polemiche, non cito l'istituto che ha fatto la ricerca, non cito le fonti e do la notizia così alla Random di Cane. Sei contento, K? Alla Random di Cane, modo più elegante per dire... di cane. Sì, sì, si era capito. Quindi, mamme e papà, non insegnate ai vostri figli a mangiare con forchetta e coltello, non serve a niente, anzi, a qualcosa serve a farli diventare obesi. Vabbè, ma adesso qui si esagera, dai! It's me, Mario! Giocare. Manovra. Su, su. Succederà. Passi in avanti. Avanti. Genuflessione. Deve penetrare di più. Sembrava che con l'avvento del governo di Super Mario Bros. Sembrava. Certe cose fossero miracolosamente sparite. Sì. Invece esse resistono, anzi. Io voglio dire una cosa su una frase che ho sentito durante la scorsa videoclip. Chi è questo? Quindi quando Mariano Apicella, rivolgendosi a Cristiano Malgioglio, gli ha detto: tu sei ricchione e io no, e sto citando. Vorrei ringraziare Mariano Apicella perché ci ha dato uno scoop, ci ha dato una grande notizia e fra un po' ci darà anche altri scoop tipo il mare è bagnato e le nuvole sono in cielo. Vorrei solo dire una cosa, a me non sta a stabilire i meriti artistici dell'uno e dell'altro. Quanti dischi ha venduto l'uno e l'altro? Cristiano Malgioglio ha scritto per Mina, per Giuni Russo, per Ornella Vanoni. Mariano Apicella ha scritto, credo, per un solo cantante e pare anche abbastanza modesto. Modesto mica tanto, scusa, è nel senso che è uno che non se la tira. Ma no, modesto nel senso che è un cantante modesto. Lui faceva il cantante sulle navi, poi le navi affondano. Comunque, la TV generalista, Drago, sta procedendo per inerzia sui vecchi binari. Altro che Mario Bros. Basta, ma qui i binari prima o poi finiranno. La TV generalista sbanderà, deraglierà e andrà tutto in vacca. Comunque questo era Vladimir Luxuria, non questo, quello prima. Ah sì, non io. All'Isola dei Famosi, sì. Vladimir Luxuria che ringraziava polemicamente Mariano Apicella per aver dato del ricchione a Cristiano Malgioglio. Sì, però scusa, la lista dei nomi già è da terrore. Allora, Vladimir Luxuria, Mariano Apicella e Cristiano Malgioglio. La seconda repubblica in tutto il suo splendore sull'isola. Eh sì, tra l'altro quest'anno all'Isola dei Famosi i partecipanti sono chiamati eroi. Eh sì, il conduttore Nicola Savino usa sempre l'appellativo eroi. Che francamente fa un po' ridere e un po' fa anche incazzare. Però il conduttore Nicola Savino non bisogna confonderlo con l'attore Pier Francesco Favino. Cosa c'entra adesso? Vedi che titolo. Acab. Ma cosa c'entra adesso Favino con Savino? Io me li confondo sempre. Ah, ecco, tu te li confondi. Ma sai quante volte Jovanotti dice al suo factotum di chiamare Savino e gli passano Favino viceversa? Ma dai. Ma è un continuo. Cioè, Jovanotti dice chiamami Savino. Il factotum non sa, no? Però non chiede perché Jovanotti. Capito. E quindi ogni tanto chiama uno l'altro Savino. Comunque Savino, lui di solito chiama appunto gli eroi, che sono i concorrenti dell'isola. Savino, ok, sì. E poi ci sono anche gli eletti, che sono i giudici supremi, un po' buffoneschi, perché includono gente come appunto Apicella e perfino il mago Telma. Eroi ed eletti. Sì, eroi ed eletti, questo è il lessico. Ma eletti nel senso di parlamentari? Ma chi li ha eletti? Ma che ne so, Simona Ventura, quella gente lì. No, quest'anno non c'è mica Simona Ventura, c'è Nicola Savino. Il DJ di Radio DJ. Sì, Savino, non Savino. Lorenzo, non si capisce quando parli, vuoi rendertene conto? Ma sono un rapper. E appunto, fai te. Io penso un po' a Savino, ma è Savino o è Savino? Io penso un po' a Savino, ma è Savino, Savino, Savino, Savino. Penso un po' a Savino. Pronto, Savino, bello il film che hai fatto, l'ultimo film. Sì, ma io non sono Savino, però la pepa non ti così. E ora, bambini, e tutti a casa. Albe! Uè, Ioris. Chi li porta a casa oggi? E oggi? Lo scuola, no? Come sempre. Solo che oggi è in ritardo, no? Per via del ghiaccio. Ah, io invece aspetto mio fratello, di 39 anni. Allora? Se vuoi ti diamo un passaggio. No, no, grazie, guarda, perché mia mamma mi aspetta alla fermata dello scuolabus, no? Se non mi vedi arrivare poi va in sbattimento, E le fai una telefonata e le dici che torni con il fratello di un tuo compagno. Ma no, no, perché poi mi fa delle domande, vuole sapere chi sei. No, niente, che poi diventa una cosa... Cosa c'è? Cioè, ti vergogni di avere un meridionale come amico? Ma no, ma figurati! Cioè, non è per quello! È per via delle rapine, no? Ho capito, vabbè! Ma per le rapine non ti devi mica preoccupare! Oggi mio fratello l'ha già fatta! La rapina! Quindi è a posto! Sta pacifico! Anzi, dopo le rapine gli viene un po' di depressione, allora tocca a me a cantare per tirarlo su. No, Ioris, guarda, io preferisco lo scuolabus, Ti ringrazio, però tu che canti per tirare su di morale tuo fratello di 39 anni con la depressione post-rapina? Cioè, non mi sembra una bella prospettiva, no? Allora considerami offeso! La Madonna, dai, come ti offendi subito! E quando io sto offeso, guai a chi mi ha offeso! Fa pure rima! Ma quale rima? Quella è una ripetizione! Continui a offendere! Ma no! È che io ho sto pregio difetto? È che io correggo sempre gli altri, no? E non posso farne meno, è più forte di me! Allora sto offeso! Albè, ricordatelo! Devi riparare l'offesa! Vabbè, ma che cos'è? La fattura? La macumba? È il ritmo duo? Albè, io t'ho avvertito! Devi riparare l'offesa! Non è ancora venerdì, K, inutile che fai infatti, metti infatti sui groove. Non è venerdì questo, ma è giovedì. Giovedì alle 5. Giovedì. Uè, continuate a seguire i nostri video. Oggi è giovedì. Vediamo i commenti, ci sono sia su Facebook che su Oggi YouTube. Oggi è giovedì. C'è il video del venerdì, il video di Aspettando Chiedo Asilo. Poi ci sono i video del bambino Alberto, pensieri Un sacco di video, un lo sacco spread, di fumetti, tutte le canzoncine, i fumetti, le cose serie anche. Serie. Sì, c'è quello di Londra, poi c'è quello del beige. Insomma, i video, ragazzi, condivideteli, i videi. Chiedo asilo, @radio24.it. A domani. È giovedì! Lascia che giovedì non riesco a intonarmi. Spegni sta roba, dai. Questo è uno smartphone, ultima generazione. Dove si schiaccia? Vedi, non c'è qua, nemmeno. Qua, vedi il quadratone, sì, sì. Fa stop. E non va. Ma non va. Stop.